Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Durante l'adolescenza non sappiamo veramente chi siamo. E di certo non siamo chi diciamo di essere. Per questo restiamo incantati quando finalmente a dirci chi siamo o come siamo è qualcun altro. Un amico, uno sconosciuto, un oroscopo. Mi chiamo Antonella, ho 31 anni e vivo a Livorno. Sono sposata con Alessio e ho una bambina di quasi 2 anni. Oggi è una di quelle puntate che si presta benissimo per un titolo, cioè per avere un titolo. Il titolo di oggi, che poi è un hashtag, se avete Twitter anche, ed è l'hashtag che vorremmo mettere sul nostro profilo di Twitter di oggi, curato sempre dalla splendida Margherita Ina, è questo: quello che ho capito di me. Sapete che, diciamo, facendo delle cose, vivendo la propria vita, semplicemente si apprendono delle cose. Si apprendono delle cose in generale e si apprendono delle cose su se stessi. Il racconto di Antonella di oggi racconta di questa cosa che è arrivata però in maniera esterna. Cioè qualcuno le ha fatto notare qualcosa su di lei. Qualcuno che non conosceva, tra l'altro, che incontrava per strada in una piazza, nella fattispecie Piazza Duomo a Milano. Con gli anni si capisce qualcosa di se stessi. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui, sul quale abbiamo appena caricato una foto, perché per la prima volta da quando siamo qua effettivamente riceviamo del materiale cartaceo. Lo riceviamo dalle persone che faranno parte dell'ebook che sarà pronto dai giorni in cui siamo al Salone del Libro, da settimana prossima ormai, da giovedì 10 di maggio, semplicemente perché sono le liberatorie, quelle per cui uno deve scrivere sì, accetto che quello che scritto vada online, eccetera eccetera, e quindi stiamo ricevendo queste lettere e devo dire che i francobolli sono magnifici, ma anche quello che ci scrivete dentro, i bigliettini d'accompagnamento, grazie per essere qui, per continuare a scrivere, per far parte del progetto e bla bla bla. Vi ripeto che l'ebook, che ormai è pronto, anche la copertina è ormai passata, giusto? La copertina è pronta pure lei, sarà online sul sito di Radio24, scaricabile gratuitamente. Ci sono 100 storie. Qualcuno mi ha scritto: come le avete scelte? E la risposta è stata: abbiamo fatto una grande riunione in cui eravamo io, Tiziano Bonini, Margherita Ina. È durata una notte, mi pare di ricordare, e alla fine abbiamo fatto una fumata bianca. Che è come dire, che è come non spiegare, più o meno. Nella seconda parte, ve lo preannuncio, se siete in macchina e il viaggio dura meno di 45 minuti, prendetevi del tempo, perché nella seconda parte, per rimanere in macchina intendo dire, perché nella seconda parte faccio l'esperimento che farò al Salone del Libro giovedì e venerdì 10 e 11. Lo ripeto, quelli che vengono, hanno intenzione di venire, sia giovedì sia venerdì, o giovedì o venerdì, fatemi un piacere, venite un po' prima. Così mi date una mano in questo esperimento. Venite magari verso le 15 invece che verso le 16. Così ci conosciamo, facciamo quattro chiacchiere e rispondete a questa semplice domanda: che cosa mi è successo oggi? O meglio, oggi mi è successo che? Con i vostri brevi racconti facciamo un grande racconto. E più tardi facciamo questo esperimento. Mi sono arrivati dei messaggi, là li farò dal vivo al Salone del Libro, li ho fatti tramite dei messaggi, e ho composto un racconto, come chiamarlo? Collettivo, ma forse anche no. 349-238-6666. Fate così: se venite al Salone del Libro, scrivetelo. 349-238-6666. Mi scrivete giovedì se venite giovedì, venerdì se venite venerdì, sabato se venite sabato. Bastano queste tre cose: giovedì, venerdì, sabato. 349-238-6666. Quello che ho capito di me: Patrizia, ho capito che non c'è niente da capire. Giuseppe, ho capito che non sono abbastanza intelligente. E peggio ancora, non abbastanza ignorante. Giuseppe, ragazzi, questo è difficile, eh? Astrid, che sarà un nome vero, ma non mi faccio più domande sui nomi veri perché poi piglio delle cantonate. Ho capito che si fanno errori e non si capisce il perché, e tirarsene fuori è una lotta. Gian Lorenzo, ho capito che penso troppo. Cristina, ho capito che sono pigra. Anna, ho capito che dopo ogni delusione, sconfitta o caduta, ho risorse sufficienti per rialzarmi. Paolo, ho capito che a volte sono io il cattivo della storia. E questa non è male come presa di consapevolezza. 349-238-6666 oppure anche voi siete qui, @radio24.it. Io tra l'altro, qualcuno mi ha scritto anche che non riesce a trovare il video promozionale, che poi non è un video promozionale, mi sono semplicemente ripreso mentre spiegavo a mia madre che viene venerdì, lo diciamo per che viene venerdì al Salone del Libro. Ho caricato questo video, se non riuscite a trovarlo è molto semplice, andate sul profilo Facebook e di solito appare una un'immagine in cui c'è un play. Più di così non riesco a spiegare, però dovreste trovarlo. Ripeto, invece, oggi facciamo due cose. La prima è quello che ho capito di me, che è l'argomento della puntata di oggi. La seconda è ricevere una sorta di... ci contiamo per vedere quanti siamo al Salone del Libro. 349-238-6666. Giovedì se venite giovedì, venerdì se venite venerdì, sabato se venite sabato. È arrivato il momento di raccontare la storia di Antonella. Era giovane Antonella, adesso ha 31 anni, ha detto, ne aveva un bel po' di meno, era a Milano e qualcuno le ha insegnato qualcosa di lei. Io credo che nella memoria la nostra vita non sia un lungo film privo di interruzioni. Penso che sia piuttosto una sequenza di spezzoni, fotogrammi, fermo immagine, piccoli episodi isolati che si compongono a formare un insieme apparentemente omogeneo. Ognuno di noi potrebbe contare centinaia di questi frammenti. Ecco, qui io voglio raccontare uno dei miei, perché se non lo raccontassi andrebbe perso. Non riguarda la mia famiglia, né i miei amici, né alcun conoscente. Riguarda me, sola, in una città che non è la mia, e un incontro con uno sconosciuto. Per questo penso sia veramente uno di quegli episodi apparentemente di scarsa importanza, che però fanno veramente parte del bagaglio personale che mi porto dietro. Forse un incontro così piccolo non cambierà la vita di una persona, però magari ci fa porre delle domande che non ci saremmo posti. Avrò avuto circa 16 anni. Frequentavo il liceo e mio padre lavorava lontano da casa per buona parte della settimana. Ogni tanto capitava che andassi a trovarlo per alcuni giorni. Prendevo un treno che dal sole della Toscana mi portava verso la nebbia della Lombardia. E mentre di giorno mio padre andava al lavoro, io ne approfittavo anche per fare qualche giro, soprattutto a Milano. Ora, a Milano ci sono alcune cose che vale la pena di vedere, ad esempio il Duomo, il Castello Sforzesco, certi musei e molte vie famose. Ma dopo aver visto posti come quelli, ciò che amo davvero fare quando sono fuori è camminare per la strada. Come se la città fosse la mia, per conoscerla, per apprezzarla, per imparare ad orientarmi nel caso dovessi tuffarmici. Mi affeziono facilmente ai luoghi che visito, e non so perché. Milano in realtà non mi ispirava particolari emozioni. Ricordo che aveva il potere di farmi sentire sola, veramente sola. Le persone correvano, si accalcavano sulla metro, sempre alle prese con qualcosa da fare, con qualche posto dove andare in tutta fretta. Nessuno incrociava lo sguardo o scambiava un sorriso con una passante curiosa come ero io. E va bene, tutti abbiamo del lavoro da fare, delle persone da vedere, qualche impegno imprescindibile a cui non possiamo certo mancare, lo capisco. Quel giorno però mi si avvicina una persona. Ero vicino al Duomo, proprio in mezzo alla piazza. Faceva freddo, pioviscolava. Quest'uomo mi fermò gesticolando, sorrideva molto e parlava l'inglese aperto e un po' strascicato che hanno gli egiziani. Ma non aveva tratti medio orientali. Indiani, piuttosto. Sì, sul momento pensai che fosse indiano. Incurante del mio stupore, mi chiese una moneta, qualche spicciolo, ma non stava chiedendo l'elemosina. E anche se vestiva in modo eccentrico, non aveva certo l'aspetto del mendicante. Pare che non avesse cambiato i suoi soldi in lire e che quindi non potesse acquistare il biglietto per la metro. Non ho monete, gli dissi, però ho un biglietto della metro, può prenderlo. Lui accettò di buon grado, mi ringraziò e poi mi chiese se fossi del segno dei pesci. Sì, è così, risposi sorpresa. Lui annuì con l'aria di chi la sa lunga e disse che si vedeva dai miei occhi. Sei una persona sensibile e io posso vedere la sensibilità nei tuoi occhi, mi disse. Sei gentile e riflessiva, ti faccio un sacco di complimenti. Poi estrasse dalla tasca una moneta lucente, un dollaro australiano, e me lo regalò. Keep it, good luck, mi disse, e salutando cerimoniosamente se ne andò. Di quella persona mi ricordo che aveva dei modi molto cerimoniosi, usava dei gesti delle mani molto ampi, e poi che era vestita in modo particolare, colori sgargianti, molto elegante, però colori sgargianti che saltavano all'occhio. Ora, io non ho mai dato particolarmente peso agli oroscopi o alle stelle, ma ricordo di essere rimasta colpita da questa persona, che indovinò il mio segno zodiacale e forse qualche tratto della mia personalità. La verità, secondo me, è che durante l'adolescenza non sappiamo veramente chi siamo e di certo non siamo chi diciamo di essere. Per questo restiamo incantati quando finalmente a dirci chi siamo o come siamo è qualcun altro. Un amico, uno sconosciuto, un oroscopo. E magari ci crediamo, che sia vero oppure no. Quella moneta l'ho conservata a lungo, poi è finita chissà dove, insieme al mio portafogli, rubato anni dopo. Sinceramente, spero abbia continuato a girare il mondo. Come mi piace credere che stesse facendo il suo proprietario quando la regalò a me. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind, all of these words. Lo ricordate il dottor Salvati? Il mio vicino di casa, lo psicologo. Dai che lo ricordate. Quello che sembra Massimo Cacciari, quello che ha lo studio di fianco a casa mia. Vabbè, ogni tanto mi capita ancora di incontrarlo, sempre meno in realtà, perché credo che lavori molto più in ospedale e meno in studio. Comunque, qualche giorno fa hanno messo nella mia cassetta delle lettere una busta indirizzata a lui. E invece che infilarla nella sua, ho fatto un'altra cosa. Sono andato a bussare alla sua porta. Così, perché sono un po' un rompipalle, ogni tanto mi piace curiosare e farmi fatti degli altri. Questa però non è una novità. Lui si stava bevendo un tè mentre leggeva un libro sui miti greci. O meglio, un libro su come i miti greci rappresentano una piccola fetta di ognuno di noi. Inutile dire che io quest'uomo lo amo. Sembra uscito da un film in cui la sua parte è interpretata da uno tipo Anthony Hopkins e ha una storia avvolta nel mistero. Erano tipo le 5 del pomeriggio e lui, tra una seduta e un'altra, sorseggiava un tè, leggendo un libro sul mito e sull'essere umano. Vabbè, lui mi ha ringraziato e poi abbiamo iniziato a chiacchierare. Mi ha detto che aveva sentito il nuovo programma e che era stato felice di avere in parte ispirato la raccolta di storie attraverso il suo faldone riguardante i suoi pazienti. Mi ha chiesto come fosse stato, però, raccontare per un paio di stagioni la mia storia in prima persona e se mi sentissi sollevato dal non farlo più o se mi mancasse. Io gli ho detto che era stato strano farlo perché era come guardare la propria vita da fuori, no? Un po' da lontano. Che però, adesso che avevo smesso e avevo iniziato a raccontare le storie di altri, mi sembrava di essere un po' meno in controllo di quello che facevo o di quello che mi capitava tutti i giorni. Per il semplice fatto che prima analizzavo tutto quello che mi accadeva per poi poterlo raccontare. E lui, sorseggiando il suo tè, mi ha detto che era prevedibile, che esporsi così tanto ha per forza un prezzo, ma anche dei benefici. La cosa che lo interessava però era il motivo per cui avevo iniziato a farlo. Io gli ho detto che era un'idea per un programma radiofonico e lui mi ha risposto che certo che sì, ma che ci doveva essere per forza anche dell'altro. Che c'era probabilmente una piccola traccia della mia infanzia, qualcosa che mi aveva spinto a mettermi su un piedistallo e a raccontare a tutti tutte le mie cose. È probabile che lei sia stato un bambino poco visto, mi ha detto a un certo punto, e giuro, ha usato proprio queste parole, un bambino poco visto. Che lei dovesse sempre trovare un modo per avere attenzione dagli altri, in famiglia, a scuola o nel suo gruppo di amici. E quindi questo l'ha portato a cercarsi un podio tutto suo, una specie di palcoscenico, o un balcone, lo chiami come vuole, da cui era sicuro di essere ascoltato. Io ho provato a dire che per me era un lavoro come un altro, lui ha finito il suo tè, ha posato il suo libro e mi ha avvisato che in 5 minuti sarebbe arrivato un paziente. Dopodiché, sorridendo, mi ha detto che di solito per parlare di queste cose chiede 80 euro all'ora, ma che per me l'aveva fatto gratis, perché gli stavo simpatico. Ecco, io non credo che il dottor Salvati e il tizio incontrato da Antonella in Piazza Duomo anni fa siano paragonabili. Però sicuramente hanno avuto su di me e su di lei lo stesso effetto. Ci hanno detto qualcosa di noi che non conoscevamo e che era una piccola verità, che stava nascosta da qualche parte. Ogni tanto persone così si incontrano, che siano medici oppure no, che lo facciano di mestiere o solo per diletto. Credo che quello che ci dicono vada preso in considerazione, vada fatto nostro, semplicemente perché hanno visto e noi prima di loro no. Sono degli piccoli squarci di consapevolezza oggi. 349-238-6666. Ma anche al telefono, apriamo il telefono per oggi per una telefonata. 800-24-0024. Quello che ho capito di me. E Massimo mi scrive: ho capito che sono ed ero una pippa nel calcio, malgrado quel contratto con la Fiorentina Calcio. Sinceramente questo un po' mi rode, ma se ero uno buono di mestiere facevo quello lì, e invece distribuisco bibite e va bene comunque. 349-238-6666, 800-24-0024. Francesca: ho imparato che sono molto selettiva nel scegliere le mie battaglie, ma una volta che ho scelto vado fino in fondo. Ho capito che quando penso di aver capito vengo puntualmente smentito. Mauro: ho capito che riesco ad essere libero e a vivere bene la vita a 10.000 km dall'Italia, al mare in Thailandia. Però così non vale. 800-24-0024 oppure 349-238-6666. Pronto Antonella? Pronto Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Ma sai che mi piace questa cosa che tu chieda sempre come stai? A chi? Alla persona al telefono? Sì, perché si crea un'atmosfera familiare, diciamo. Guarda, questa è una cosa per cui mia madre dice sempre: perché chiedi sempre come stanno le persone? Come vuoi che stiano? Stanno bene, sono lì al telefono con te. Però, vabbè, insomma, in qualche modo arriva. Sei, dove sei? A Livorno? Sì, in questo momento sono a Pisa, però io sono di Livorno. E che ci fa a Pisa? De boia. Perché ci lavoro. E cosa fai, me lo puoi dire? Sì, io lavoro, sono un chimico, lavoro in un laboratorio. È un laboratorio privato, di ricerca? Di ricerca. Quindi, sì. Scusami, sei una ricercatrice? Sì, diciamo di sì. Ma per l'università italiana o per... Sì, per l'università italiana, però precaria, ecco. Vabbè, scusami, adesso va bene tutto, però mica vorrei essere ricercatrice per l'università italiana eppure con un lavoro fisso. Senti, dimmi invece tu che cosa hai capito di te, Antonella? Me lo sono chiesta nel corso della puntata. In realtà una cosa che sicuramente ho capito è che nel tempo si cambia, e quindi quello che avevamo capito prima potrebbe non corrispondere poi al presente. E quindi sicuramente bisogna stare sempre sul chi va là e cercare di guardarci dentro momento per momento. Senti, ma adesso sei nel laboratorio? No, sono uscita. Certo, sei nel solito bagno dove tutti si incontrano quando chiamano voi siete qui alle 16.25. No dai, sono uscita in cortile. E che ricerche stai facendo in questo momento? In questo momento sto facendo, in pratica sto analizzando delle sostanze fluorescenti che vengono usate come sensori. Ma il fine qual è, scusami? Riuscire a determinare alcune, per esempio, variazioni nelle caratteristiche di una cellula o di un campione tramite misure di fluorescenza. E quindi, scusami, l'applicazione pratica poi qual è? Quella di costruire dei biosensori, per esempio, potrebbe essere una possibile applicazione. Senti, invece, torniamo all'egiziano in Piazza Duomo. Sì. Questo signore vestito in maniera bizzarra, ma che non chiedeva l'elemosina, no? Di fatto, quindi semplicemente probabilmente aveva soldi, ma di un'altra valuta, mi è sembrato di capire. Sì, esatto. Cioè, lui, vabbè, diciamo, ha detto delle cose che anche tu scrivevi, insomma, più o meno ha capito delle cose di me, però che si potrebbero dire a chiunque, soprattutto se si è dei ragazzini e si ha la luce negli occhi che hanno i ragazzini. Ha capito che sei del segno dei pesci, però. Sì, ha indovinato. Questo non c'è dato sapere come l'abbia capito. No, e infatti la cosa curiosa è proprio questa, perché in effetti le cose che mi ha detto, come dici te, potevano essere dette a chiunque, però ha proprio indovinato il segno, voglio dire. Senti, uno su 12. Infatti aveva una probabilità su 12, no, una probabilità su, non su 12, 12. Sì, su 12, cioè lo 0,8... l'8% di probabilità aveva, più o meno. Vabbè, chi se ne frega. Senti, sì, non credi agli oroscopi tu, Antonella? Non però li leggi? Solo quando me li trovo davanti li leggo, poi se mi piacciono, bene, se non mi piacciono... Cioè, però scusami, questa è una ricerca personale che sto facendo da qualche anno. Un oroscopo a settimana almeno lo leggi? Meno. Uno ogni 10 giorni? Due settimane? Due oroscopi al mese? Due al mese, uno al mese capita. Venduta. Poi in genere lo uso in questa maniera, se è buono, bene, magari penso che sarà una bella giornata, se è cattivo almeno ho una scusa se le cose vanno male. Antonella, poi ti lascio, descrivo dopo la tua foto come faccio sempre, mi dici dove sei nella foto che ci hai mandato? Sono a Capoverde, sull'isola di Boa Vista. Niente, sì, non ci abbiamo beccato. È un piccolo deserto nel centro dell'isola che si chiama Deserto de Viana. Va bene, Antonella, grazie mille, ti lascio tornare alla ricerca. Grazie ancora, grazie in bocca al lupo. Crefi. Ciao, buona giornata. Ho capito che nella vita i buoni non perdono mai, ma nemmeno vincono. Il problema è che io sono un buono, ma sempre meno. Mauro. Voi siete qui. È su una spiaggia di Capoverde, Antonella, e l'avremmo indovinato quasi così, senza che lei ce lo dicesse. Ha una maglietta verde, a righe verdi. Sembra una battuta orribile, ma è così. Alle sue spalle c'è... Non una spiaggia, un deserto, ha detto. Ha detto un deserto, ok. Il cielo è screziato, lei ha i capelli al vento, ma è la, e sorride. Ma è la posizione che è una posizione strana. Perché lei è in piedi e tiene le braccia aperte con i palmi delle mani esposti verso l'obiettivo della macchina fotografica. Come se offrisse i polsi al fotografo. Non so cosa ho detto esattamente, o se offrire i polsi a... Però guardate questa foto, andate sul sito di Radio 24 e guardate la foto. L'abbiamo messa anche su Twitter, su Voi Siete Qui, quindi se avete Twitter seguiteci e la vedete. Antonio M scrive: Antonella, mentre ti ascoltavo alla radio mi sono innamorato di te. Questo non lo diciamo, Antonella è sposata a un figlio, ma vale tutto, cioè insomma vale leggere i messaggi. Ho capito che per fare delle cose che ho in mente il tempo non è sufficiente. Luis da Treviso, si parla delle cose che avete capito di voi. Avete capito almeno una cosa? Quella. 349-238-6666. Ciao Matteo, cosa hai capito di me? Potrei scrivere un libro. Vabbè, e su questo ognuno di noi potrebbe scrivere un libro, poi bisogna vedere se è realmente interessante. Ma ti mando solamente l'ultima frase. In ultima analisi... Ah, questa è l'ultima frase del libro. In ultima analisi ho capito che se veramente capissimo qualcosa di noi, non saremmo più stuzzicati dal sapere cosa la vita... Aspetta un attimo, scusa, mi abbassi un attimo. Non so se la presenti al Salone del Libro, Enea, però io la rivedrei quest'ultima frase. In ultima analisi ho capito che se veramente capissimo qualcosa di noi non saremmo più stuzzicati dal sapere cosa la vita ci riserva, perché in fondo siamo eterni cercatori. Ok, l'ho capita. Comunque la rivedrei, così a naso. Poi dipende dalla copertina com'è, magari la copertina è accattivante e ce lo compriamo lo stesso. Però per uno che legge la prima e l'ultima frase, c'è il rischio di mancanza di comprensione e anche quel doppio suono capire capissimo. Paolo, Enea? Enea, sei tu che ci scrivi su Facebook tutte le notte il pensiero della notte? C'è qualcuno, che non so chi sia, che tutte le notti, ragazzi, ma una costanza incredibile, io non ce la farei, giuro, faccio quasi fatica a star dietro alle puntate quotidiane. Tutte le notti scrive un pensiero su Facebook che si intitola Pensiero della Notte. Tu leggi le prime righe, poi mostra altro cosa esce su Facebook, una pagina di scritto, ma anche elaborato. Enea, sei tu? Ciao Matteo, non leggo oroscopi e non ci credo, ma sono dei pesci ed in vita mia ho sempre riconosciuto i pesci prima te lo dicessero, Antonio. Allora, qui non c'è mai nessuno che crede agli oroscopi, mai, nessuno, però, siamo tutti lì. Per 40 euro ti facevo io il profilo, credo il profilo zodiacale, o mi rifacevi i connotati. Hai fatto tutto questo per fare una trasmissione radiofonica? Boh, ragazzi, non capisco niente, non capisco i messaggi che mi mandate, sarò sicuramente io. Ah, dobbiamo contarci, ragazzi, diteci se venite giovedì o venerdì o sabato, che vogliamo evitare ingorghi allo stand di Radio 24. 349-238-6666 per il Salone del Libro. Venite giovedì, venerdì o sabato. E adesso veniamo all'esperimento. Mi togli un attimo la base? Me la rimetti? grazie. Volevo solo vedere se eri lì col ditino, Paolo. Allora, l'esperimento è questo qua. Vi daremo un foglio con sopra scritto il vostro nome e cognome per sapere chi siete. E poi, oggi mi è successo che... E voi dovete semplicemente scrivere in una frase una cosa che vi è successa quel giorno, giovedì o venerdì, dalla mattina al pomeriggio, quando siete arrivati. Lo farò anch'io, ovviamente, perché sennò non starei lì a fare niente. E raccogliamo questi iscritti. Per farlo vi chiedo di venire un po' prima allo stand, ve l'ho già chiesto, ma ve lo richiedo. Perché io mi metto lì, dal vivo, davanti a voi o magari in un angolino dello stand, cerco di scrivere un racconto, cioè cerco, lo devo scrivere un racconto che è composto dai vostri piccoli avvenimenti quotidiani, ok? Una sorta di voi siete qui ora, una sorta di racconto raccolto da tutti i vostri piccoli episodi. Ho fatto questo esperimento l'altro giorno, cioè ho scritto su Facebook che cosa vi è successo oggi, quindi anche un hashtag su Twitter che era oggi mi è successo che, e ho scelto questi messaggi. Prima ve li leggo e poi vi leggo il racconto che ho composto. Mara, mio figlio ha ripreso a suonare il piano, è stato molto bello. 1. Francesca, affettando il pane mi sono fatta un taglio su un dito. 2. Sara, ho scoperto che un'amica ha un amante. 3. Questo è il terzo. La quarta, cercando di ripulire l'auto ho ritrovato una penna, una pinza per i capelli, un paio di occhiali e 10 centesimi. E poi il quinto, Claudio, ho parlato del mio futuro con un amico, ho mangiato delle fave e una forma di pecorino. E poi Margherita, il TGV Milano-Parigi si è rotto, in cambio arriva un TGV a 2 piani e dicono che il posto segnato non valga più. Senza volerlo però sto viaggiando in prima classe su dei mega sedili. E poi Peppino, sono andato a fare colazione in un bar, eravamo in 2, siamo andati a pagare ma la colazione era stata offerta. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messaggi che ho scelto per comporre un racconto, il racconto delle storie accadute in questi giorni, in quel giorno lì che era ieri, a queste persone. Il racconto è questo qua, per cui se io sono qui e io sono qui, oggi mi è successo che... Mi sono svegliato col suono di un pianoforte. Era un pezzo classico, di non so chi e non so quando. Era suonato dalle mani di un bambino. È strano perché non ho un pianoforte in casa e soprattutto non ho nemmeno un bambino. Ho immaginato venisse da qualche appartamento vicino e mi sono alzato. Avevo un treno da prendere e un amico da vedere. Avevo fretta, ma non volevo correre. Mi sono preparato una colazione che è una cosa che non faccio mai. La prendo fuori, sempre, tutti i giorni. Oggi però mi sentivo un po' dentro una pubblicità di quelle col sole che entra dalle persiane e il latte caldo che fuma nella tazza. Ho preso il burro dal frigo e la marmellata dalla mensola. E ho tagliato il pane. Mi sono affettato il dito indice, di quei tagli che ti accorgi solo quando ti sei tagliato quanto usi il dito indice. Mentre mi medicavo è suonato il telefono. Una mia cara amica ha pensato bene di raccontarmi di avere un amante proprio mentre il sangue cadeva goccia a goccia per terra e macchiava le piastrelle del bagno. Erano già sporche, quindi non me ne preoccupavo. Non sono mai pulite le piastrelle. Non vengono mai pulite come quelle del bagno di mia madre. Quando ho chiuso il telefono, sapendo tutto degli incontri amorosi di 2 assistenti dell'università, ero davvero in ritardo. Sono sceso e ho cercato di ripulire l'auto che era un porcile. Ho ritrovato una penna, una pinza per i capelli e un paio di occhiali. Ah, e 10 centesimi. Ho pensato che forse se la tenessi più pulita smetterei di perdere le cose e non ne avrei sempre 2 di tutto. Sono andato verso la stazione e ho fatto colazione al bar di un amico che sta lì di fronte. Abbiamo parlato di calcio, di tempo e di futuro, mangiando fave e pecorino alle 10 del mattino. Mentre raggiungevo il binario ho saputo che il mio treno non sarebbe arrivato, che era rotto, e l'avrebbero sostituito con uno più grande, più comodo e più bello. Mentre aspettavo ho preso il caffè, quello che non avevo preso al bar. L'ho preso al bar della stazione. Eravamo in 2, ma quando siamo andati a pagare la colazione era già stata pagata. La barista non conosceva la persona che l'aveva fatto e noi non sapevamo che ringraziare. Ecco, voi siete qui e oggi vi è successo che... come messaggio di oggi al 349-238-6666. Il messaggio mandato da non so chi, che dice: verboso. Un messaggio mandato a un programma e ad una radio fatta di solo parole: sei il migliore di tutti. Cosa ha capito di me? Ho capito che nonostante i miei buoni propositi non riuscirò mai ad essere cinico. Ho sempre la speranza che le persone siano generose quanto lo sono io con loro. Massimo, e poi mi era arrivato questo messaggio di Francesca oggi, è per gente che ha visto Clerks, quindi che sa di cosa stiamo parlando. Il mio momento illuminante è stata la visione in un mini cinema in prima fila del film Clerks. Io e il mio migliore amico eravamo lì seduti a sganassare, cioè a ridere, dopo uno strano periodo conclusosi con alti e bassi. E poi i due protagonisti hanno affrontato la questione di guerre stellari. Ecco, lì mi si è aperto un varco spazio-temporale nella coscienza. Al diavolo i cliché, i luoghi comuni e gli anticonformismi. Ero una nerd, perfettamente felice e a suo agio di esserlo. Pace e prosperità per tutti. Non ho capito se la chiave di lettura è che se ti piace Guerre Stellari sei un nerd, Francesca. Non credo che sia così, credo che ci sia qualcosa di più. Con tutto che poi secondo me i nerd sono anche cambiati ultimamente, sono un po' imbellettati anche loro. Vabbè, sdoganati, quello da mo'. Oggi ho capito che ho sprecato 2 mesi della mia vita. Aspetta un attimo, questo è uno dei miei messaggi un po' da posta del cuore. Ho sprecato 2 mesi della mia vita nel tentare di rimettere insieme i pezzi di una storia d'amore durata solo 7 mesi, ma di quelle che ti fanno sognare, in cui avrei davvero voluto investire, perché speravo di essere la sua Karen come nella lettera di Jack in Californication. E soprattutto ho capito che questa consapevolezza almeno oggi non mi porterà a nulla, perché nonostante tutto ho fatto ancora qualcosa per lui, ho scritto questo SMS. In tutta questa nebulosa emotiva io ti ringrazio e in qualche modo ti sono vicino, chiunque tu sia e qualunque Karen tu sarai per qualunque Jack in qualsiasi Californication. Grazie a te, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Antonella e parlava di conoscersi, quella di domani è la storia di Vincenza e parla di sopravvivere. Ho molto sonno, ma mi sveglio comunque. Solo che non è normale avere tutti quei vetri addosso e li sento pizzicare sulla pelle e sotto i piedi. Scappiamo e ci troviamo sul pianerottolo, chiamandoci per stare insieme. Un'ombra ci supera, scende la rampa di scale davanti a noi e poi l'urlo del vuoto, perché sotto di noi non c'è più niente.